Victoria. Si guardò attorno nell'oscurità. Aveva dimenticato qualcosa? Con gli stivali in mano per evitare i cigolii, si diresse verso la porta del garage. La aprì delicatamente, poi si fermò a mettersi gli stivali. L'aria in quel locale buio puzzava di gas di scarico e olio motore. Victoria avanzò a tentoni fino al furgoncino, infilò la chiave nella portiera e la aprì. Gettò il sacchetto sul sedile del passeggero e si sedette al volante. Yuri le aveva insegnato a guidare. Su una BMW invece che su un vecchio furgoncino Renault, è vero, ma non faceva differenza. Se la sarebbe cavata, bastava solo che non la fermasse la polizia. Premette il tasto del telecomando che sollevava la serranda e una striscia di luce del lampioncino esterno si allargò sempre più davanti al muso del furgone. Stava per mettere in moto quando intravide un movimento alle sue spalle. La porta del garage era aperta. Malte. Evidentemente si era svegliato. «Che cazzo!» sbratò lui vedendola. Victoria armeggiò con la chiave, riuscì a girarla, ma nello stesso istante in cui il motore si metteva in moto, Malte spalancò la portiera.